Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Sono le 17:07 minuti e il 349-238-6666 come sempre è il numero per intervenire in diretta via SMS. Partiamo dai mercati, poi ci arriveremo più avanti perché la giornata è veramente ottima. Avete sentito anche dal giornale radio la notizia per quanto riguarda i titoli di Stato, lo spread, la differenza di rendimento tra i titoli italiani e tedeschi a 10 anni è arrivato a 151 punti base e il rendimento dei decennali italiani è al 2,44%. Buone notizie da quel lato, buone notizie anche dalle borse con lo Standard & Poor's 500 negli Stati Uniti che sfonda la quota 2000 punti. In questo momento è a 2001,81 e guadagna lo 0,67%. Milano col FTSE MIB che guadagna oltre 2 punti percentuali, il FTSE All Share altrettanto, e bene fanno anche le altre piazze finanziarie europee e anche la Germania, anche Francoforte guadagna l'1,73% nonostante siano arrivati dei dati negativi proprio dalla Germania, in particolare l'indice IFO al suo quarto calo consecutivo. Parleremo dell'Europa e dell'Italia proprio in apertura di trasmissione. Faremo il punto, ritorneremo a Jackson Hole dove si è svolta la riunione dei banchieri centrali i tre giorni della settimana scorsa, giovedì, venerdì e sabato, e ci sono state le parole di Mario Draghi che hanno dato qualche segnale di apertura dal lato della cosiddetta austerità, appunto, ossia un'impostazione forse meno rigorista, l'impressione di un'impostazione meno rigorista, ma naturalmente il tutto vincolato alle riforme che i governi devono fare. Tra l'altro si apre una settimana importante, qualcuno scherzerà, l'ennesima settimana decisiva, perché venerdì c'è un Consiglio dei Ministri rilevante da questo punto di vista e poi ci sarà il Consiglio europeo che deciderà sulle nomine, ma al quale Matteo Renzi si vuole presentare evidentemente con qualcosa in mano, con delle riforme fatte. Nel frattempo riforme già fatte, per così dire, fanno sentire il loro peso. Oggi il Sole 24 Ore dedica ampio spazio alla vicenda della TASI, alla quella che viene definita nel titolo corsa alle nuove aliquote. Che cosa succede? Beh, lo sapete, a alcuni comuni era stato concesso un po' più di tempo per deliberare sulle aliquote, ebbene pare che siano un po' in ritardo anche adesso, insomma. Un comune su due non ha ancora deliberato sull'aliquota della TASI e là il problema, se volete, è sempre quello, ma insomma, come facciamo a ragionare su tutti noi, su un bilancio familiare, su un bilancio quotidiano, quando non sappiamo quanto pagheremo di tasse entro la fine dell'anno? Questo ci andrà spiegato, ce lo devono spiegare anche i comuni, con tutte le giustificazioni che hanno per aver ritardato così tanto nel deliberare le aliquote. Dunque faremo evidentemente il punto anche su questo. Ve lo ricordo ancora, 349-238-6666 il numero per i vostri SMS, le notizie in breve di oggi. Quando torna il titolare Sebastiano Barisoni, torna la settimana prossima, niente paura. Allora, l'oro è fermo, 1.277 dollari l'oncia, il petrolio scende di mezzo punto percentuale a 93,2 dollari al barile. Dei mercati vi abbiamo già detto in apertura, lo Standard & Poor's 500 ha fatto segnare un record oltre i 2000 punti e bene fanno anche i titoli di Stato italiani. E ci sono segnali interessanti anche dal mercato dei cambi, insomma, anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato spesso la sofferenza delle aziende esportatrici per un dollaro molto debole. Ebbene, l'euro si sta indebolendo nei confronti del dollaro, è a 1,3197, sceso sotto gli 1,32. Pesano naturalmente anche le parole del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che ha aperto a nuovi interventi. Poi anche su questo torneremo più avanti. E pesa anche quello che ormai viene interpretato come sicuramente un rallentamento tedesco, certo in un quadro macroeconomico comunque ottimo per quanto riguarda la Germania, però i segnali di rallentamento si moltiplicano. Prendete l'indice che misura la fiducia delle imprese tedesche, ossia l'IFO, è sceso per la quarta volta consecutiva a 106,3 punti dai 108 del mese di luglio, e c'è il commento del direttore dell'istituto economico IFO, Hans Werner Sinn, che dice che l'economia tedesca continua a perdere forza, le imprese sono meno soddisfatte della situazione attuale dei loro affari, ma soprattutto, perché l'indice di fiducia è questo quello che misura, guardano ai prossimi mesi con più scetticismo. Ancora dalla Germania ci sono gli ordini nel settore dell'edilizia nel mese di giugno. In termini di valore sono scesi dell'11,9% rispetto all'anno precedente. Da dire, nota l'Istituto, l'Ufficio Federale di Statistica, che nel giugno 2013 gli ordini erano stati eccezionalmente alti. Tant'è vero che, nonostante il calo del settore, nel mese di giugno il numero degli addetti nell'edilizia è aumentato dell'1,3%. Nel primo semestre dell'anno gli ordini sono saliti dell'1,5% e il numero degli occupati dell'1,9%. Come se non stesse succedendo niente, Angela Merkel e Mariano Rajoy si incontrano, il premier spagnolo e la cancelliera tedesca, e riaffermano l'impegno nelle politiche di consolidamento fiscale, una parola soft per dire austerity e rigore. E da segnalare anche, naturalmente, poi anche su questo ci torneremo, è quello che sta succedendo nel governo francese, ve lo accennavano poco fa nel giornale radio, questo mega rimpasto che fa fuori tra l'altro Arnaud Montebourg, il ministro dell'economia, che nei giorni scorsi si era scagliato non solo contro la cancelliera Angela Merkel dicendo dobbiamo essere più duri con la Germania, ma si era scagliato anche contro il suo stesso presidente François Hollande, insomma dicendogli un po'... Il concetto era questo, non gliel'ha detto così, però dicendogli sono un po' troppo supino ai tedeschi. Come vi dicevamo, una settimana, qualcuno scherzerà, decisiva per le riforme. Si sta lavorando intensamente tra Palazzo Chigi, il Ministero dell'Economia, c'è la riforma della giustizia civile, la riforma della scuola, il cosiddetto sblocca Italia, e vengono anche esaminate le proposte di tagli di spesa elaborate dal commissario Cottarelli. Mancano, scrive il Sole 24 ore, 4-5 miliardi di euro per rispettare il vincolo del deficit al 3% del PIL. Tutto questo ammesso che il governo nel 2015 riesca a tagliare spese per 17 miliardi. Intanto qualcosa sembra essersi mosso, perché il ministro Marianna Madia ha firmato mercoledì scorso la circolare per il taglio di permessi e distacchi sindacali nel pubblico impiego. Perché diciamo che un provvedimento taglia spesa? Perché che cosa succede nel pubblico impiego? Che quando c'è un dirigente sindacale che deve lavorare per il sindacato, non lo paga il sindacato, per così dire, ma lo paghiamo noi, lo paga l'amministrazione pubblica. Tutto questo costa, secondo i calcoli fatti dalla Corte dei Conti nel 2012, diciamo un centinaio di milioni all'anno, e il dimezzamento dovrebbe portare a un risparmio di 50 milioni di euro in termini, sono 100 milioni di euro in termini di mancate ore di lavoro, per così dire. Alessandra Schepisi ha raggiunto Michele Gentile, coordinatore del Dipartimento Pubblico Impiego della CGIL. Sentiamo. Il governo, datore di lavoro di 3.200.000 pubblici dipendenti, ha deciso di tagliare le libertà dei sindacati che agiscono sulla platea dei 3.200.000 dipendenti. Una misura presa per limitare l'attività sindacale. Presa per risparmiare in realtà, però. Ma sa, poi risparmiare, se si vede la relazione tecnica fatta dalla Ragioneria Generale dello Stato all'articolo 7, si vede che il risparmio è non solo assolutamente minimo, ma sarebbe utile poi alla fine quantificare questo risparmio. Escluso la scuola, dove ogni docente in distacco sindacale ha in automatico un supplente, che lo stesso automatismo non c'è in tutti gli altri settori. La Corte dei Conti però ha quantificato in 110 milioni di euro. Sa, queste quantificazioni della Corte dei Conti sono, bisogna vedere quali sono i criteri. Io vi faccio un esempio: se uno non è un dipendente della scuola, nel momento in cui rientra ha diritto a voci retributive che nel momento in cui è in distacco non avrebbe. Con tutto il rispetto per il coordinatore del Dipartimento Pubblico Impiego della CGIL, se la Corte dei Conti, che è il guardiano dei conti dello Stato, no, sono i magistrati contabili, calcola in 100 milioni di euro il costo per lo Stato di questi distacchi sindacali, insomma, non vedo da che lato lo si possa mettere in dubbio questo calcolo. Insomma, magari saranno solamente poste contabili, questo non lo so in tutta sincerità, però insomma i dati sono quelli. Iniziamo col primo tema di questa giornata, che intreccia, come dire, le questioni di politica monetaria, di economia europea in genere, perché abbiamo anche oggi, come si diceva, questi dati dalla Germania che segnalano ancora un rallentamento. Già qualcuno ci chiede al 349-238-6666 cosa comporta per l'Italia questo rallentamento tedesco, ed è Carmen. Comporta o può comportare delle conseguenze, come dire, tanto economiche quanto evidentemente politiche, che quelle sulle quali sono quelle sulle quali evidentemente contiamo di più, per così dire, no? un ammorbidimento eventuale della Germania. Da una parte si incrocia questo, dall'altra il tema è l'Italia, evidentemente, no? Il fatto, questo semestre di presidenza europea che si apre per davvero, se così vogliamo dire, sabato, con il consiglio nel quale si devono decidere le nomine, al quale consiglio Renzi si vuole presentare con qualcosa in mano, a partire da questo famoso sblocca Italia. Però saluto Ferdinando Giuliano, che è Global Economy News Editor del Financial Times, un collega giornalista. Ferdinando, buonasera. Buonasera. E dovremmo avere in linea, lo chiedo, anche Guido Gentili del Sole 24 Ore, editorialista del Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Allora, partirei da Ferdinando Giuliano per chiedergli di aiutarci a mettere insieme i pezzi, a partire da questo discorso di Jackson Hole di Mario Draghi, nel quale molti hanno letto una sorta di allentamento della linea del rigore, per così dire. In realtà la mia impressione è che Draghi non è che ha detto molto di nuovo rispetto a quanto non abbia già detto prima, ossia sì, siamo disposti ad altre misure straordinarie, come per esempio l'acquisto di titoli sul mercato, e però ci vogliono le riforme, insomma il trade-off, lo scambio è sempre quello, no? Ma credo che sicuramente gli elementi che menzionavi c'erano e sono un po' quelli ripetuti da Draghi in passato, cioè la Banca Centrale Europea è disposta appunto a lanciare nuovi strumenti, il principale, quello che tutti aspettano, il famoso quantitative easing, l'acquisto di titoli di Stato sul mercato e poi magari anche di altre, proprio di prestiti delle banche, che le banche hanno fatto alle imprese. Però credo che la parte interessante del discorso sia stata tutta la sezione sulla politica fiscale. Draghi nei discorsi per lo più ha incitato i governi a fare le riforme strutturali, la riforma del lavoro, la riforma del mercato, dei prodotti, delle professioni per esempio, però in questo discorso che toccava appunto moltissimi temi ed era incentrato comunque sulla sua preoccupazione sulla disoccupazione in Europa che resta molto alta e persistente, ma anche sull'inflazione che resta troppo bassa, ecco, Draghi in questo discorso ha parlato molto di politica fiscale, che è una cosa abbastanza strana per lui, soprattutto per come ne ha parlato dicendo che forse le regole vanno interpretate in maniera un pochettino più flessibile, c'era anche un riferimento velato ad alcuni paesi a un maggiore coordinamento delle politiche fiscali, che alcuni possono leggere come voler dire i paesi che possono spendere un po' di più forse dovrebbero farlo, e quello appunto è la Germania. Quindi credo che sul lato della politica fiscale ci fosse qualcosa di un po' diverso. Chiaramente Ferdinando, per uscire dall'ambiguità con l'inglese, quando parli di politica fiscale, parli di fiscal policies, quindi politica di bilancio in realtà. Assolutamente. Sì, sì, no, sì, giusto, per, quindi, giusto per chiarire. Tagliare, no, perché tasse, aumentare la spesa, esatto, certo, sì. Sì, politiche di bilancio, quindi da parte di Draghi c'era un riferimento al magari dire ai governi forse c'è spazio per allentare un po' la scinghia, ovviamente tutto molto in maniera molto prudente, dicendo appunto che bisogna rispettare i vincoli di bilancio, però per esempio c'è un riferimento a usare la flessibilità già presente nel patto di stabilità. C'è un riferimento a un piano di investimenti paneuropeo di cui molto si parla e però poco si è visto. Quindi secondo me quel lato lì era un lato un po' nuovo e soprattutto la presenza di questi elementi. Draghi avrebbe potuto fare lo stesso discorso limitandosi soltanto alle riforme strutturali e alla politica monetaria. Ha voluto inserire qualcosa sulla politica fiscale, secondo me significativo. Sulla politica di bilancio, appunto. Sì, sulle politiche di bilancio. Guido Gentili, ti sembra un discreto assist per il Presidente del Consiglio e per chi in Europa, pur tra mille contraddizioni, basta vedere quello che sta succedendo in queste ore al governo francese, insomma, spinge per un allentamento del rigore? Ma io direi è un mezzo assist, è un po' come si vuol vedere il bicchiere, se è mezzo pieno o mezzo vuoto, nel senso che Draghi, condivido l'analisi che è stata fatta prima, Draghi ha messo l'accento sulle politiche di bilancio, evidenziando anche il fatto che la politica monetaria più di tanto non può raggiungere dei risultati e quindi spetta poi ai governi ad agire. In questo senso dice una cosa per la verità ovvia, cioè usare i margini di flessibilità che sono già previsti dai trattati, e ci mancherebbe altro che non si usassero nemmeno questi, voglio dire. Però è comunque un aver posto l'accento su un elemento di maggiore apertura, di maggiore apertura alla tesi di chi vuole più flessibilità sostanzialmente. E insieme però, e qui il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, insieme però a una spinta ai governi ad agire nel senso della direzione delle riforme e quindi di non perdere il controllo ovviamente dei conti pubblici e muoversi nella direzione, pensiamo alla legislazione sul lavoro, ma pensiamo anche a livello della politica fiscale, nel senso dell'eccessiva pressione fiscale che grava in paesi come l'Italia, a mettere in atto quelle riforme che servono per sbloccare il paese e ridare fiato all'economia in questo momento. Poi insomma c'è qualche ascoltatore che si chiede, dice: perché state qua a interpretare le parole di Draghi? Perché i banchieri centrali, come è noto, non parlano mai chiarissimo fino in fondo, naturalmente, parlano finché possono parlare. A proposito di questo, Ferdinando, Giuliano, tu facevi riferimento al fatto che Draghi ha dato l'impressione di voler dire soprattutto alla Germania, il concetto era: spendete un po' di più, insomma, no? In questo continente bisogna rilanciare la domanda, più o meno il concetto è questo, se c'è qualcuno che può farlo siete esattamente voi. Pensi che il richiamo di Draghi, unito ai dati pesanti oggettivamente che stanno arrivando dalla Germania, che gode ancora, lo dicevamo prima, di una situazione economica ottima, livelli di disoccupazione ai limiti di quella fisiologica, possa spingere, come dire, i tedeschi ad ammorbidirsi, ad ammorbidire il loro di bilancio prima ancora che far ammorbidire i nostri? Per ora è sicuramente questo è un auspicio da parte di molti, però per ora non si sono visti segni di cambiamento nel sentire diffuso dei tedeschi. È chiaro che per ora il governo, appunto la Merkel, ha avuto risultati elettorali eccellenti sulla base di una politica molto molto attenta alle finanze pubbliche a casa, e diciamo nessuno degli altri partiti cerca di scavalcarlo in qualche maniera a sinistra, promettendo, o anche a destra, promettendo tagli delle tasse. Il fatto che non si veda nulla di questo tipo fa sembrare che non ci sia ancora molto appetito da parte dei tedeschi per una spinta espansiva. È vero anche però, come appunto veniva sottolineato, che il dato del secondo trimestre con un prodotto interno lordo che scende dello 0,2% sul trimestre precedente. Ora il rischio è che appunto le sanzioni alla Russia, per quanto c'è lo scambio di sanzioni fra Russia ed Occidente, comporta dei rischi forti per l'economia tedesca, che è molto sbilanciata comunque dal punto di vista commerciale, degli scambi commerciali con la Russia. Ecco, questi, e comunque il rallentamento più generale di alcuni mercati europei e non europei, e sicuramente può portare a un periodo di maggiore debolezza per l'economia. Questo potrebbe avere alla lunga degli effetti, sì, però comunque l'economia tedesca rimane un'economia molto forte, la disoccupazione è bassa, tendenzialmente i salari non sono cresciuti per anni e comunque non c'è stata una spinta a farli crescere ancora di più. Quindi credo che comunque la spinta dal basso rimarrà limitata. Se ci deve essere una scelta a un maggiore coordinamento delle politiche di bilancio, e quindi magari a una Germania che spenda di più, secondo me deve venire un po' più dai leader, sicuramente non solo da Angela Merkel, ma magari da delle pressioni di altri leader dell'Eurozona. Questo è interessante, anche se Merkel naturalmente parte da una posizione di forza. Ci segnalava l'altro giorno Alessandro Merli, che è corrispondente del Sole, l'altro giorno dico, ma parlo di una decina di giorni fa, Alessandro Merli, che è corrispondente del Sole 24 Ore a Francoforte, diceva: probabilmente i tedeschi, finché non vedranno l'impatto sull'occupazione, e quindi insomma il fatto che tutti questi dati, che questi dati negativi impattano appunto sull'occupazione, cosa che generalmente avviene un po' più in ritardo, cioè noi vediamo un andamento che peggiora per l'economia, ma appunto l'impatto sull'occupazione è più ritardato nel tempo, difficilmente si muoveranno da questo punto di vista. In tutto questo, il governo italiano, Guido Gentiloni, che ha tutta l'intenzione di presentarsi al Consiglio europeo sotto la sua presidenza con qualcosa in mano, no? Sì, questo è questo Renzi lo ha detto molto esplicitamente, però poi occorrerà vedere alla prova dei fatti che questo che cosa significa. E quindi innanzitutto, al di là degli annunci che riguardano la riforma della giustizia civile, il famoso decreto sblocca Italia, adesso la riforma della scuola, insomma sono tutti temi molto importanti, però bisogna vedere con quale forma si decide di intervenire. Mi riferisco all'ipotesi, perché un conto è un disegno di legge, un conto è un disegno di legge delega, un conto è un decreto legge che è immediatamente operativo. Quindi questo è la forma, in questa fase è sostanza. Occorrerà vedere poi quanti di questi provvedimenti che verranno annunciati il 29 sono dei provvedimenti cosiddetti copertina, cioè che verranno approfonditi poi in un momento successivo. E detto questo, certamente se riesce a dare una spinta, ad esempio sulle misure che riguardano il decreto cosiddetto o il provvedimento comunque sblocca Italia per rimettere in moto gli investimenti e dare da questo punto di vista una spinta all'economia, questo ovviamente è un fatto significativo, sarebbe un fatto significativo, così come sarebbe significativo un'accelerazione per quanto riguarda i tempi della riforma del mercato del lavoro, quindi che in questo momento è calendarizzata sostanzialmente per la fine dell'anno, e quindi invece accelerare e bruciare un po' i tempi e riportarla un po' in cima ai progetti di intervento del governo. Quindi bisognerà vedere, insomma, è una partita, certamente è il momento della verità per Renzi da questo punto di vista, sì. Perché è alla vigilia di preparare la legge di stabilità che verrà presentata anche all'esame della Commissione Europea di Bruxelles, è un momento molto significativo, quindi sappiamo quali sono le condizioni reali dell'economia, le abbiamo dette tante volte, e quindi questo è il momento della verità per lui e per il suo governo. Ci scrive Raffaele da Milano, dice: se aspettiamo che la Germania entro l'anno veda gli effetti negativi sull'occupazione perché cambi politica economica, non ci arriviamo vivi. La battuta non è male. Ferdinando Giuliano, a me sembra che in Europa la cosa più attesa e la cosa sulla quale ci si sta concentrando è esattamente la riforma del mercato del lavoro, cioè quello che ci si attende, che forse potrebbe essere il segnale più forte da dare è proprio quello. Assolutamente, fino ad ora si è dato molto tempo a Matteo Renzi, il provvedimento, quello degli 80 euro, è stato visto secondo me con un po' di perplessità, forse appunto la gente sperava un buon risultato politico da parte di Renzi alle elezioni europee, che c'è stato, questo sicuramente è stato un buon motivo per chiudere un occhio, però ora è il momento della verità per Renzi, ha voluto prendere un po' di tempo per fare questa riforma del lavoro, però ora deve presentarla e deve esserci qualcosa di significativo. Ricordiamoci che comunque la riforma del mercato del lavoro era la riforma su cui in qualche maniera si è impantanato il governo Monti dopo alcuni mesi con delle riforme che erano state viste come molto significative, e quello è stato il punto in cui in qualche maniera il governo Monti ha smesso di produrre risultati. C'era un passaggio interessante nel discorso di Draghi, in cui si diceva che magari si potrebbe dare un po' più di flessibilità ai governi per in qualche maniera ammortizzare gli effetti di alcune riforme strutturali significative. Credo che lì ci sia un assist importante per Renzi. Ovviamente una riforma del mercato del lavoro ha dei costi, e secondo me da parte dell'Europa, forse da parte sicuramente di Draghi, c'è un messaggio: se questa riforma del lavoro è seria, magari ci può essere un po' di spazio per allentare alcuni dei vincoli europei. E così rispondiamo anche all'ascoltatore che scrive, mi scusi, più flessibilità vuol dire fare più debiti che l'Italia non pagherà mai. No, guarda, il punto è esattamente questo, pensi solo alla riforma degli ammortizzatori sociali, Guido Gentili, della quale parliamo da ormai da sempre, e che costa dei soldi quella riforma effettivamente, e però se non la fai siamo da capo a 12, quindi devi avere la possibilità spendere qualcosa in più per mettere in campo le riforme che servono. Poi c'è tutta un'altra questione, che è quella che riguarda l'attuazione delle riforme. Il Sole 24 Ore calcolava che siamo al 47% più o meno tra quelle di Monti, Letta e Renzi, però quello è un altro conto. Però dico, come diceva Ferdinando Giuliano, è un assist importante, e poi è quel margine di flessibilità che forse veramente ci serve. Guido. Sì, scusami, andavo io alla voce nell'ultima fase. Sì, è il margine che ci serve, e vorrei però aggiungere che è importantissimo ovviamente l'intervento sul mercato del lavoro. Il cambio delle regole su questo terreno è un segnale che tutta l'Europa e i mercati finanziari attendono da moltissimo tempo. Però è anche vero che dobbiamo cercare contemporaneamente appunto di rimettere in moto l'economia, perché se non si rimette in moto il mercato in qualche modo, il cambiamento solo delle regole secondo me poi serve a poco ed è anche può essere all'origine di scontri politici molto forti in un paese che purtroppo è abituato più allo scontro ideologico che non al confronto pragmatico su questi temi. Quindi è importante la riforma del mercato del lavoro, è importante cambiare alcune regole, ma è importante anche contemporaneamente ridare il segnale di un paese che riparte. Qui mi riferisco all'abbassamento della pressione fiscale, quindi a dare dei segnali significativi che diano anche fiducia ai lavoratori, ai contribuenti, agli imprenditori che, diciamo, questo paese ha voglia di ripartire. Grazie a Guido Gentili del Sole 24 Ore, grazie a Ferdinando Giuliano, Global Economy News Editor del Financial Times. Ci scrive un ascoltatore: la riforma del mercato del lavoro sarà l'ennesima fregatura per noi lavoratori che non produrrà alcunché. Senta, non è necessariamente detto, poi ripeto, insomma, è a detta di tutti, abbiamo un mercato del lavoro mal funzionante oggettivamente, e se ne renderà conto anche lei da lavoratore dipendente. Che questo vada rimesso in sesto mi sembra che non ci sia minimo dubbio. Poi sulle direttrici si può discutere all'infinito. Ed eccoci di nuovo dunque a parlare di questa giornata di borsa ottima, come si diceva, confortata da un bel andamento di Wall Street. E anche Milano che guadagna il 2,30% sul FTSE MIB e il 2,19% sul FTSE All Share. Leonora Micheli, Radio Core, il Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, come mai sono andate così bene le cose? Ma già questa mattina i listini del vecchio continente sono partiti bene, incoraggiati dalle parole che a Jackson Hole ha pronunciato il numero uno della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che si è detto nuovamente pronto a intervenire con misure straordinarie nel caso appunto di necessità, ovvero nel caso in cui l'economia dell'Eurozona continui ad andare male. Poi hanno allungato il passo nel pomeriggio dopo che lo Standard & Poor's 500 ha violato al rialzo la soglia dei 2000 punti, mettendo a segno un nuovo record storico. Sì, tra l'altro adesso è sempre là intorno a 2001,64 punti, guadagna uno 0,67%, il Dow Jones lo 0,68%, va bene anche Francoforte che guadagna l'1,83%, Parigi il 2,10%. A chi ci chiede cosa sono i punti degli indici, sono la cifra assoluta che sta sotto questi rialzi percentuali, giusto, insomma, giusto per chiarirci, per farla semplice. Bene tutte le banche a Milano. Sì, bene tutte le banche, soprattutto perché lo spread calato si è portato a 152 punti e quindi questo ha incoraggiato gli acquisti in primis sui titoli bancari. In primo luogo si è messa in evidenza Banca MPS, che non a caso è una delle più esposte verso i bond governativi, ne ha in pancia una ventina di miliardi. I titoli hanno fatto più 5-7%, ma ricordiamo che c'è anche un po' di speculazione in atto, non è chiaro infatti cosa possa avvenire. Nei giorni scorsi il neopresidente di Fondazione MPS, che detiene il 2,5% delle azioni, ha detto che il patto di sindacato, che per adesso è con Fintech Advisory e con BTG Pactual, che controlla il 9%, potrebbe essere allargato chissà anche ad AXA, che controlla il 3,7% delle azioni. Ma intanto peraltro i due soci, Fintech e BTG Pactual, sono abbastanza nervosi perché dovevano ammettere due propri rappresentanti nel CDA della banca e per adesso nessuno ha fatto un passo indietro e quindi ha fatto spazio. Allora, Monte dei Paschi si diceva un più 5,77%, bene la Popolare Emilia Romagna, più 4,46%, UBI Banca più 2,95%, questo per rimanere alle banche, naturalmente Intesa San Paolo più 2,69%, Unicredit più 2,17%, la Popolare Milano più 1,47%, Mediobanca guadagna l'1,67%. Enel, più 3,73. Sì, Enel in questo caso è stata ben gettonata perché si avvicina la data della eventuale cessione della controllata al 66% della società elettrica in Repubblica Slovacca. E la quota è valutata fino a 2 miliardi di euro, soldi che potrebbero andare a ridurre il debito di Enel. Nei giorni scorsi, come ha scritto il Sole 24 Ore, la società ceca CEZ ha presentato una manifestazione di interesse formale, quindi ci potrebbe essere un'accelerazione in questa cessione. Telecom Italia guadagna l'1,14%, beh, e qua è ancora, come dire, l'affare Vivendi. Sì, Telecom oggi è salita ma meno del listino, perché gli investitori sono cauti nell'attesa di comprendere che cosa succederà. Ricordiamo che mercoledì c'è il consiglio di amministrazione della compagnia che dovrebbe mettere a quel punto le carte in tavola e quindi fare un'offerta a Vivendi per integrare la propria controllata brasiliana Team Brasil con la controllata di Vivendi GVT, ma soprattutto fare anche un piano industriale a livello per integrare le due aziende, e poi potrebbe essere varato anche un aumento di capitale riservato a Vivendi, con cui il gruppo francese diventerebbe, secondo indiscrezioni di stampa, il nuovo azionista di riferimento con una quota attorno al 15-20%. D'altra parte potrebbe andare anche tutto a monte, perché non è detto che Telefonica non faccia ulteriori passi. Ricordiamo che ha già fatto un'offerta da 6,7 miliardi per GVT, e secondo sempre indiscrezioni è determinata ad accaparrarsi l'azienda brasiliana e quindi a alzare l'offerta fino a 8 miliardi di euro. Allora, adesso ci prendiamo una pausa per la viabilità e poi abbiamo da parlare anche di Tenaris e di Carige, in una giornata nella quale, ve lo dico subito, non ci sono titoli in negativo, almeno sul listino principale. Considerate che i peggiori sono Saipem più 0,22%, Gtech più 0,22%, Autogrill più 0,83%, ST Microelectronics che guadagna lo 0,88% e TOTS un punto percentuale. Chiudere l'appuntamento con la borsa con Eleonora Micheli di Radio Corriere Sole 24 Ore, Tenaris e Carige. Sì, Tenaris più 2,39%, questa mattina anche si era messa in luce sin dalle prime battute, dopo la decisione dell'americana Federal Trade Commission di confermare i dazi nei confronti dei produttori coreani di tubi per l'industria petrolifera, e quindi ne beneficerà Tenaris, visto che, ricordiamo, è il primo produttore negli Stati Uniti proprio di tubi. Per quanto riguarda invece Banca Carige, ha fatto più 3,99%, quasi più 4%, sulle indiscrezioni anche qui di cosa succederà nell'azionariato dell'istituto genovese. Secondo infatti il Corriere della Sera, Fondazione Carige, che già ha ridotto la propria quota al 19%, potrebbe vendere ulteriormente azioni spingendosi fino al 10% del capitale e quindi rendendo ancora più contendibile l'istituto. Grazie ad Eleonora Micheli di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Gli altri titoli, c'è anche Finmeccanica che guadagna il 3,26%. A questo proposito ci sono le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Finmeccanica, Mauro Moretti, che ha glissato le domande sulle offerte per la eventuale cessione del settore trasporti che comprende Ansaldo Breda e Ansaldo STS, e Moretti ha detto: spero di poter chiudere il dossier entro ottobre. Dunque Finmeccanica in guadagno del 3,26%, Unipol SA il 3,25%, Iux il 2,9%, Atlantia il 2,72%, A2A il 2,42%, bene Azimut più 2,39%, così come Snam e Tenaris, ed Enel Green Power il 2,3%, bene Xor che guadagna il 2,2%, Campari il 2,17%, Mediolanum il 2,16%, Terna sopra il 2%, Generali l'1,89%, Mediaset l'1,6%, World Duty Free 1,5%, infine Prismian, quelli che non vi abbiamo detto, Prismian più 1,37%, Pirelli più 1,31% e Fiat più 1,23%. Non abbiamo detto nemmeno Ferragamo più 1,21% e Luxottica più 1,21%. Passiamo a parlare di tasse. Per la precisione, più che parlare di tasse, parliamo di una tassa specifica, parliamo della TASI. Oggi Il Sole 24 Ore pubblica un calcolo che in realtà non è un calcolo proprio del Sole 24 Ore, ma al quale si dà il giusto rilievo, ossia che al 21 agosto la delibera TASI sul sito del Ministero delle Finanze pubblicate, le delibere TASI pubblicate riguardavano meno della metà dei comuni. Allora, gli si è dato più tempo ai comuni, soprattutto a quelli che andavano al voto. Si è dato un po' più di tempo a tutti, no? Perché insomma si è detto le leggi, i regolamenti attuativi sono arrivati un po' in ritardo, quindi prendetevi il tempo che dovete prendere. Ma bisogna per forza arrivare all'ultimo minuto. Il 10 settembre la scadenza ultima. Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore. Buonasera, ciao. Buonasera. Questa solita vicenda italiana, insomma, alla fine gli si è dato più tempo, siamo al 25 agosto e solo la metà dei comuni ha varato la delibera. Eh sì, sembra che più tempo viene concesso, più tempo ci vuole per deliberare. In realtà non è una novità, perché abbiamo già visto negli ultimi due anni, sia nel 2012 che nel 2013, arrivare molto tardi le delibere dell'IMU. Negli altri anni ovviamente c'era l'IMU, ma insomma non è certo il primo anno che con i bilanci preventivi i comuni arrivano al voto dopo l'estate. Quest'anno il termine è fissato per i bilanci al 30 di settembre, per la TASI lo ricordavi un attimo fa, al 10 di settembre, ma l'anno scorso siamo arrivati addirittura a votare i bilanci al 30 di novembre, quindi una data ancora più avanzata rispetto a quella di quest'anno. Certo, questo pone seria ipoteca sui proprietari che in questi giorni vogliono cercare di capire quanto pagheranno con la nuova imposta, perché lo ricordavi, su 8.000 comuni, poco più di 8.000 comuni italiani, ce ne sono solo 3.600 eroi che hanno già pubblicato sul sito delle finanze le delibere della TASI. Ovviamente molti arriveranno alla scadenza un po' sul filo, ma qualcuno non ci arriverà per niente, con tutto ciò che ne consegue per i proprietari. Scusami, fammi capire una cosa. A prescindere, vabbè, che insomma stiamo chiarendo bene qual è il punto del problema, ossia il fatto che ci sono una serie di cittadini italiani, tantissimi, che a tutt'oggi non sono in grado di chiudere un bilancio familiare, non solamente perché c'è la crisi, ma semplicemente perché non sanno quanto pagheranno di tasse. E questa incertezza, naturalmente, in termini fiscali, è la cosa evidentemente peggiore in assoluto, no? Tanto per i cittadini, insomma, quanto per le imprese e per chi deve investire. Ma voglio capire questo da te: se qualche comune andasse oltre il 10 di settembre, cosa succederebbe? Niente. No, la legge già lo prevede. Cosa succede? Il meccanismo è una specie di paracadute che la legge concede ai comuni, cioè se il comune delibera entro il 10 di settembre, i contribuenti vanno alla cassa a pagare al 16 di ottobre con le aliquote decise dal comune, sempre che non stiamo parlando di quei pochi comuni che avevano già deciso a giugno, perché in questi casi ovviamente se è già pagato a giugno non si deve pagare a ottobre. Se però il comune entro il 10 di settembre non delibera, allora la legge stabilisce che si andrà a pagare tutto a saldo, quindi tutto entro il 16 di dicembre, e si pagherà con l'aliquota base dell'1 per mille. Attenzione, questa aliquota contiene una piccola trappola per i cittadini, perché siccome è un'aliquota secca, senza detrazioni, è vero che è un'aliquota più bassa di quella a cui eravamo abituati con l'IMU sull'abitazione principale, sì, che si pagava di base al 4 per mille. Però attenzione, non ci sono le detrazioni, quindi l'effetto è che le case con una rendita catastale modesta, indicativamente sotto i 400 euro, pagheranno più di quanto pagavano con l'IMU. Ecco perché per esempio sul giornale di oggi il sindaco di Ascoli Piceno, che ha anche la delega all'ANCI per la finanza locale, dice: deliberare è anche importante per mettere un minimo di equità nel prelievo, però bisogna che tutti i comuni si sbrighino, certo, altrimenti qualcuno non ce la farà. Certo, a Stefano che scrive: alcuni comuni non sanno ancora quanti trasferimenti avranno da questo Stato, fate pena. Io però non capisco, Stefano. Fino a un certo punto. Perché l'hanno saputo, quelli che l'hanno saputo per ultimi all'inizio di agosto. È vero che è tardi. Sì. Questo sì, però è passato ormai già quasi un mesetto, insomma, quindi sì, ci sono oggettivamente dei problemi per i comuni che hanno vissuto molti tagli negli ultimi anni, ci sono comuni che hanno bilanci ormai ridotti all'osso, ce ne sono altri che hanno ancora dei margini per intervenire anche sulla spesa corrente, e non è detto che ogni volta che c'è un taglio dei trasferimenti l'unica risposta possibile possa essere proiettare il taglio su un aumento delle aliquote. Certo. No, capisco, ti faccio proseguire, Cristiano, prego. No, questo volevo dire, insomma, bisogna anche un po' capire che purtroppo quando si parla di autonomia locale ci sono 8.000 bilanci, anzi 8.057 sì. per la precisione, quindi ci sono comuni virtuosi, ci sono comuni che hanno ormai una spesa corrente che è di fatto quasi tutta in welfare, come spesso succede, ce ne sono altri che hanno ancora ampi margini per fare i tagli. Bisogna anche dire che le delibere sulla TASI non sono delibere che si improvvisano, c'è un lavoro istruttorio da parte degli uffici, poi bisogna votarli in giunta, se c'è un capoluogo di provincia bisogna passare attraverso il parere dei municipi, cioè dei vecchi consigli di quartiere, e poi arrivare al voto in consiglio comunale, che deve essere comunque preceduto da un tempo tecnico lasciato ai consiglieri comunali per fare l'esame. Insomma, non è che la colpa sia tutta dei comuni, questo è evidente, però è anche evidente che ci sono comuni che riescono ad arrivare prima e altri che arrivano cronicamente per ultimi o che non arrivano. Del resto, e qua come dire, non è che si vuole fare un... perché poi c'è sempre il rischio, ci dite state facendo discriminazione territoriale, però i dati sono là e sono quelli pubblicati al Sole 24 Ore. Lasciamo stare la Valle d'Aosta, che è una regione autonoma dove sono state già fissate il 98% dei comuni, ed è anche una regione piccola. Lasciamo stare Trentino Alto Adige, che è al 62%, ma non capisco perché l'Emilia Romagna riesce nel 76% dei casi, 76% dei comuni dell'Emilia Romagna, non è una regione piccolissima proprio, i comuni sono riusciti a approvare la delibera, e in Sicilia solo il 13% ha deliberato, in Puglia il 18% e in Basilicata il 19%. Ora, evidentemente ci sono anche delle disparità in 10 secondi, Cristiano, regionali che contano da questo punto di vista, no? Ma sì, contano, poi cioè, conta, probabilmente dico, in termini di qualità dell'amministrazione, non è che si fa un discorso razzista da questo punto di vista. No, ma non è neanche una necessaria qualità dell'amministrazione, è anche uno stile amministrativo, concedimi l'espressione. Ci sono comuni e zone d'Italia in cui si attende ad arrivare comunque sulle scadenze all'ultimo, un po' sul filo di lana. Sul filo di lana. Allora, io ringrazio Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, ringrazio come sempre tutti voi per l'ascolto, Valerio Rocchetti in regia, dovrebbe esserci Pietro Lacorte a Milano, Mauro Del Corno in assistenza in redazione. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.